In seguito Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò nel modo seguente. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri discepoli. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono, salirono sulla barca e in quella notte non presero nulla. Sul far del giorno Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non sapevano che era Gesù. Disse loro Gesù: «Figlioli, non avete qualcosa da mangiare?» Gli risposero: «No». Egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e ne troverete». La gettarono e non erano più capaci di tirarla su, tanti erano i pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, indossò la veste, poiché era nudo, e si gettò nel mare. Gli altri discepoli andarono con la barca, poiché non erano lontani da terra, se non circa 200 cubiti, trascinando la rete dei pesci. Appena scesi a terra, videro della brace con sopra pesce e pane. Disse loro Gesù: «Portate dei pesci che avete preso ora». Salì Simon Pietro e trasse la rete a riva, piena di 153 grossi pesci. E sebbene fossero tanti, la rete non si ruppe. Disse loro Gesù: «Venite a fare colazione». Nessuno però dei discepoli osava domandargli: «Tu chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede a loro e ugualmente il pesce. Questa fu la terza volta che Gesù si manifestò ai discepoli risuscitato dai morti. Quando ebbero finito la colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» Gli risponde: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli ripeté una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami tu?» Gli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecore». Gli domandò una terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Si rattristò Pietro perché gli aveva detto per la terza volta: «Mi ami tu?» E gli rispose: «Signore, tu sai tutto, tu conosci che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico, quando eri giovane ti annodavi da te la cintura e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti annoderà la cintura e ti condurrà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Dopo queste parole gli disse: «Seguimi». Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che era adagiato durante la cena vicino a lui, e aveva detto: «Signore, chi è colui che ti tradisce?» Vistolo dunque, Pietro disse a Gesù: «Signore, è lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi». Si sparse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che le ha scritte, e sappiamo che la sua testimonianza è veritica. Ci sono anche molte altre cose che Gesù fece. Se si scrivessero a una, penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.